Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, questa è settimana di sessione plenaria al Parlamento europeo riunito a Strasburgo, settimana di vertice. E dunque cominciamo questa mattina con il no ai paradisi fiscali nel cuore dell'Europa, che invece deve trovare fondi consistenti per dare una risposta ai quasi 6 milioni di giovani disoccupati senza un futuro. Così il vicepresidente dell'Europarlamento Gianni Pittella questa mattina, che aggiunge: è impensabile che nel cuore dell'Europa possano mantenersi dei paradisi fiscali. Oggi però è anche una data che ricorda naturalmente il terremoto in Italia, ne stiamo parlando, avete sentito una serie di interviste su questo tema, ed è anche una questione chiave quella della ricostruzione dei finanziamenti, che dunque coinvolge il sistema europeo. 670 milioni di euro, 549 milioni per l'Emilia Romagna, sono il volume per ora distribuito dal Fondo di Solidarietà Europeo. Allora la nostra Laura Bettini ne ha parlato con Simona Arletti, che è assessore alle politiche europee del Comune di Modena, che nel pomeriggio presenterà un rapporto al Consiglio Comunale straordinario. Sentiamola. Da quando è stato istituito il Fondo Europeo di Solidarietà, l'erogazione maggiore che è stata fatta è proprio questa, di 670 milioni della Commissione Europea. Oltre a questi fondi, quindi oltre al Fondo di Solidarietà, la Regione Emilia-Romagna ha riprogrammato 10 milioni di euro dei fondi POR-FESR e sono stati utilizzati 255 milioni di euro da parte di altre regioni italiane che hanno messo a disposizione i loro fondi su altri rami del finanziamento UE, proprio per dare una mano anche qui a sistemare tutta la parte, diciamo, di urgenza. In quanto tempo sono stati realmente disponibili i fondi europei? Sono stati definitivamente assegnati alla fine dello scorso anno e quindi da quest'anno sono stati utilizzabili, ma erano già utilizzabili perché c'era comunque un impegno, che sono stati anche utilizzati ad esempio per il ripristino delle strutture scolastiche e sanitarie, che per noi sono state la prima priorità. Europa, Europa degli Stati, Europa delle regioni, che secondo un nome storico della politica europea, in realtà gli Stati europei hanno impedito, contrastato e in particolare proprio la nascita di un'Europa delle regioni. Così Jordi Pujol, storico presidente catalano per 23 anni, nonché uno dei promotori negli anni 80 del movimento regionale in Europa. Lo sentiamo in un frammento, in un passaggio dell'intervista che ha realizzato Sergio Nava. Il movimento regionale europeo credo che è un momento molto negativo, perché a un certo momento abbiamo potuto, le regioni, lavorare, fare dei progressi importanti, avere una capacità per parlare, per discutere con gli Stati, eccetera. Ma finalmente c'è stata una reazione degli Stati e di alcuni partiti europei contrari a tutto questo, e finalmente l'Associazione della Regione d'Europa, questo esiste tuttavia, e lavora e se collabora bene, ma lavora con molto, solo è permesso all'Associazione della Regione d'Europa di lavorare in un livello molto basso, no? La possibilità di che le regioni italiane, le regioni spagnole, le regioni francese, ovviamente uno dei paesi più contrari a tutto questo era la Francia, di lavorare a qualche cosa che non sia poco importante, poco importante, la possibilità di lavorare a qualcosa che sia più significato, adesso questa possibilità è molto ridotta. Sono Federico Taddia e oggi vi segnalo una interessante opportunità di lavoro proposta da EURES, la rete di cooperazione per l'occupazione promossa dalla Commissione europea. Il servizio EURES della provincia di Padova, in sinergia con lo ZAV di Bonn e il supporto di Veneto Lavoro, organizza infatti un reclutamento a livello nazionale per l'assunzione di ingegneri italiani in Germania. I colloqui si terranno l'11 giugno a Mestre, in provincia di Venezia, rigorosamente in lingua inglese o tedesca. La scadenza per le candidature è il 28 maggio. I profili richiesti e tutte le informazioni si trovano sul sito www.provincialavoro.padova.it. E come sempre ritrovate queste e altre informazioni sul sito radio24.it. Bene, con Europa 24 per oggi è tutto, l'appuntamento è domani naturalmente alle 13.15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.